Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 8 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia il riposo del guerriero e comincia l'insegna della risata, nel senso che oggi cercheremo di ridere. La puntata infatti si intitola Non ci resta che ridere, perché è quello che dobbiamo cercare di fare, sicuramente lo dobbiamo fare in queste due ore, anche giocare. Intanto vi ricordo il numero per i vostri sms, 349-238-6666, e il numero verde invece, perché alle 11.30 come sempre ci sarà il mistero in 24 minuti, quindi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, e per risolvere il mistero dovrete ascoltare gli indizi. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Si parte da 1000 euro e la risposta può essere un personaggio oppure una notizia o un oggetto, comunque se molto famoso. Settimana scorsa per esempio si parlava del nuovo Monopoli, anche perché sta andando il Monopoli sta andando in giro per le città d'Italia, visto che ne hanno fatto una versione nuova per il 150esimo. Un misto quindi fra notizia e oggetto di culto come la scatola del Monopoli. Ma era la risposta di settimana scorsa, non quella di questa settimana. Quindi alle 11.30 il mistero in 24 minuti, per voi il numero verde, perché potete prenotarvi fin da adesso, 800 24 00 24. Vi dicevo che oggi appunto cercheremo di ridere, di capire quali sono i meccanismi della risata, perché dietro ogni comico si muovono molte persone, si muovono gli autori, per esempio, che sono quelli che scrivono le battute, i battutisti, così si chiamano, che insieme al comico cercano di far emergere il meglio della comicità, e non è sempre facile. E poi cercheremo di darvi qualche indicazione sulle possibilità che ci sono per chi volesse intraprendere questa strada, ahimè piuttosto in salita. Non è semplicissimo, però insomma le possibilità ci sono. Quindi a questo punto dobbiamo cominciare con qualcosa. Alzate un po' il volume della radio e mettetevi a cantare, perché sicuramente cantare fa bene e soprattutto non ci resta che ridere. E ridere sempre così gioco. Annacci, che canta come se fosse in osteria e un po' ubriaco, non so se fosse veramente nel momento in cui si è messo a cantare questa canzone, che canta appunto Vivere. Tra l'altro Vivere è un pezzo di Schipa del 1937, per cui è un pezzo del ventennio. Mi ha divertito come gli Annacci sostituì La voglio vivere sempre più, che quello sarebbe il vero testo, e quello con La voglio vivere senza tu, perché così una licenza, diciamo così, che però funziona nell'ironia della canzone. Il primo ospite già ci sta aspettando, sicuramente non ci farà soltanto ridere, ci racconterà anche quanto forse è difficile far ridere in un certo modo e che cosa si può fare per far ridere, ma anche sorridere forse della propria vita e delle cose che si fanno quotidianamente. Tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Non ci resta che ridere. Allora, tutto cominciò, perlomeno la notorietà, insomma il nome cominciò a girare dopo questa telefonata. Buongiorno Fiat. Salve, buongiorno, sono il presidente Vendola. Avrei piacere di parlare col dottor Marchionne. Un attimo, prego. Sì. Allora, ancora un attimo, mi scusi, posso nel frattempo dire tutta la mia ammirazione per lei. Sono molto onorata di parlare con lei. La ringrazio. Buongiorno. Arrivederci. Pronto? Pronto. Sì, dottor Marchionne, buongiorno. Volevo innanzitutto dirle che lei da italiano sicuramente avrà un occhio di riguardo maggiore nei confronti di questa situazione, penso. Ma guardi, Presidente, la posizione della FIA su questo è stata di una chiarezza incredibile. Ecco, allora, chiarissima la posizione di FIA. Ciao Barti Colucci, buona domenica. Caro buona Stefano, sono il Presidente Ventola. Posso dirti questo? Come no, vai. Hai detto una cosa giusta, sì, tranne una, ecco, un'inesattezza. Certo. Che a volte fa ridere, la risata, sì, è figlia solitamente di una speculazione introspettiva, ecco, che percorre strade dei sentieri non asfaltati. E qui Stefano, scusami, ce l'avendo, se l'è impossessato di me. Allora adesso voglio, sei impossessato di tutti, ti dico la verità, sì, perché ormai sì. Intanto grazie Barti di essere con noi, ti ho svegliato presto questa mattina. No, assolutamente, Stefano, io sono contento di essere ospite della tua trasmissione, anche perché insomma poi mi avete dato il cachet che ho richiesto, quindi hai visto? Grazie mille. Grazie, però cioè, 5 euro. Sì, il caffè se vuoi, questo anche se siamo un po' lontani. Io vorrei cominciare un po' dal passato, insomma, sì, nel senso che comici non è che si nasca così all'improvviso. Tu ti sei svegliato un giorno e dici adesso voglio fare il comico, ma ti sei costruito in realtà una serie di cose, perché hai cominciato con imitazioni che arrivano prima da quelle di Ventola, ovviamente. Sì. Beh, io, sai, nel senso, penso che comici non si nasca, però non ci si improvvisa neanche. È per quello, appunto. Bisogna in qualche modo crearsi un personaggio, studiare e capire dove si vuole andare, insomma. Sì, ecco. Io penso che comunque la vena comica poi ce la si porti dalla nascita. Nel senso, io facevo imitazioni sin da quando ero bambino. Ovviamente per giocare, per scherzare. Non avrei mai pensato di farne poi un lavoro, no? Di poterlo mettere in pratica, che poi vuol dire entrare nel mondo radiofonico con la comicità ancora una strada ancora più impervia di quella della televisione, come tu ben sai. Sì, è molto difficile perché non c'è la possibilità di vedere, per cui bisogna giocare, esatto, molto con la voce. Per quello le imitazioni funzionano in radio per questo motivo. Esatto, esatto. Poi la comicità, vuol dire, va giustamente come dici tu, insomma, intesa. Instradata, no? Hai capito? Perché, instradata, bravo. Perché siamo tutti bravi a far ridere gli amici a tavola, poi certo, però bisogna far ridere una platea molto più ampia. Poi, Stefano, ancora più difficile è far comicità, io dico in maniera elegante, nel senso, la volgarità non è tanto la parolaccia, ma il modo in cui la si può dire anche, nel senso, perché io mi sono sempre proposto di fare una comicità che non scadesse nella volgarità intesa, nella parolaccia gratuita, nel fuori luogo, ma di fare una comicità intelligente che un po' si sposa anche con quella che è la satira politica. Ecco, infatti di quello poi parleremo, perché ho già preparato anche un'altra cosa, ovviamente, che ti riguarda lo stesso, e sai già dove voglio andare a parare. Parliamo un po' di ridere per vivere. Sì. Niente, ridere per vivere, mi cogli di sorpresa, perché Ridere per Vivere è un'associazione che ho fondato insieme ad altre persone, sì, è un'associazione che è costituita su tre livelli, c'è anche la cooperativa, la federazione nazionale, è un'associazione onlus di comicoterapia, ovvero per intenderci Patch Adams, insomma molti... Certo. Fanno riferimento insomma al film di Patch Adams, ovvero noi prestiamo il clown terapeuta, che è la figura insomma che su cui si basa questa associazione di cui faccio parte, si basa appunto sull'intervento di comicoterapia negli ospedali pediatrici e non solo, anche in geriatria, insomma in tutte quelle situazioni dove c'è bisogno di una di un supporto emotivo che viene dato attraverso insomma la risata, ma il risata inteso non sempre come la finalità, ma anche come una chiacchiera, a volte una chiacchiera stessa con una persona adulta, un'emozione positiva può aiutare insomma la degenza del malato a venirne fuori. Ma quindi sì, la comicità applicata in ambito terapeutico. Sicuramente saper sorridere anche in una situazione tragica, difficile, è fondamentale, perché comunque certo, è un modo certo per affrontarla, al posto certo, che certo piangere, perché quello sarebbe quello, però invece riuscire a ribaltare la situazione, riuscire anche a ridere di un dramma è straordinariamente certo importante e serve. Se tu consideri che poi i bambini rispetto agli adulti poi non hanno questa grande capacità elaborativa di capire il contesto in cui si trovano e il perché si trovano magari in un ambiente ospedaliero, vedi che allora la figura del clown terapeuta è fondamentale per decontestualizzare non solo l'ambiente ospedaliero ma anche gli strumenti, quali possono essere una frega, un ago, insomma. E il clown terapeuta riesce a fare proprio questo, cioè conferire a quegli oggetti e anche a a una stanza di ospedale, un carattere totalmente magico agli occhi del bambino, e quindi il bambino era molto più tranquillo alla degenza e anche alla malattia. Senti, il fatto che il tuo nome adesso abbia cominciato a circolare dopo questo straordinario scherzo a Marchione, insomma, perché ci è cascato in pieno, tra l'altro non aveva neanche capito poi si trattasse di uno scherzo, lui ha... Ma sai Stefano che sì, perché... Perché poi ha chiuso la telefonata dicendo arrivederci presidente, nonostante che poi gli abbia svelato. Forse perché pensava che io, quando ho detto sono Nicky Vendola di RDS, probabilmente doveva pensare che RDS sarà una marca. Una, cioè, sì, una, ma secondo me era anche abbastanza disattento, ti dico la verità. Sì, no? Quindi, sì. Invece la segretaria non si sa più che fine abbia fatto. Non... Nel senso che... La segretaria, ho avuto notizie, meno male, è stata molto blindata, cioè nel senso, io poi mi sono preoccupato affinché non incappassi in qualche... insomma, Tu dici disciplina penale, no? No, beh, insomma, semplicemente le avranno detto: guardi, lei risponda semplicemente al telefono e non faccia i complimenti a chi che sia. Ecco. No, anche perché posso dire, al di là del discorso politico, voglio dire, esprimere una preferenza, infatti, sulla persona, anche perché si è presentato, insomma, non come politico, cioè come persona. Io non ci vedo nulla di male, che magari in questo paese siamo un po' abituati. Essere eccessivamente, insomma. Ma indubbiamente, giudici, infatti, no? Le due cose non devono assolutamente essere associate. Certo. Io posso apprezzare molto una persona e magari non vederla da quel punto di vista politico, voglio dire, però come persona in sé. E quindi, però mi sono sincerato che insomma non gli è stato assolutamente fatto nulla in termini, insomma, lavorativi. Complimenti anche per lo scherzo da Santanchè, visto che lei stessa, che è molto amica di Vendola, vero, sì, non ha capito, ecco, tu fossi un'altra persona, magari la canzoncina. Ecco. Sì. E volevo capire, Vendola, come l'hai costruito? Cioè, se un giorno ti è venuto in mente, così ascoltandolo, hai cominciato a imitarlo oppure hai cominciato a studiarne il modo di parlare? Sì, allora, parte dal presupposto che io imito, a volte faccio anche la parodia, che la parodia si discosta dall'imitazione, la parodia è un po' un'accentuazione del personaggio, dell'imitazione, quindi magari una voce un po' più calcata, non proprio uguale. Tornando a Vendola, semplicemente io già lo imitavo da 2 anni, essendo io pugliese, quindi lo conoscevo. Certo, è più facile, prima. Diciamo. Sì, no, ma io lo conoscevo molto prima, insomma, che divenisse... che avesse la popolarità che ha ora, sicuramente negli ultimi 2 anni, insomma, essendo governatore della Puglia. Quindi lo imitavo già da prima, in quanto mi faceva ridere. Ricordo, io imito chi mi fa ridere. Ovviamente poi imito chi ha una leva comica che si è amplificata, suscita ilarità. La sua leva comica era appunto quella dell'essere, di avere questo linguaggio abbastanza barocco, abbastanza polloso, no? Come dire, nel parlare, cioè se lui deve dire, che so, parliamo di legge elettorale, sì. Allora fammi una domanda, fai una domanda a Vendola: presidente, questa legge elettorale, oppure delle prossime elezioni, cosa ne pensa? Fammi la domanda, Stefano, lui ti risponde. Presidente, delle prossime elezioni cosa ne pensa? Si andrà alle elezioni in anticipo o ormai basta? Allora, innanzitutto penso questo. Sarebbe importante capire come nel percorso di vita di ognuno di noi spesso ci ritroviamo a percorrere sentieri sdrucciolevoli, non sempre lastricati da un manto di cemento o da un manto stradale che riesce ad acquisire tutta l'acqua piovana che spesso in questa stagione, detta anche invernale, cade... Ecco, presidente, c'è la pubblicità, no, perché a un certo punto poi non è arrivata... Lui divaga. Dovresti comprarti il tubolario, non so se ce l'hai. Uscì negli anni 80 questo tubo con tutte le frasi che comunque composte avevano un senso non compiuto, diciamo così, ma avevano un senso politichese, potrebbe funzionare. Quindi i testi, per esempio, per gli scherzi di RDS, se li scrivi tutti tu? Sì, assolutamente, io sono autore dei miei personaggi e dei miei testi, poi ho un collaboratore ai testi, perché ovviamente facendo giornalmente 4 personaggi in diretta più rischiesse al giorno, insomma, ho bisogno di un supporto. Infatti però... non è affatto semplice, ma attenzione, perché per me, insomma, l'apice, il clou, lo si è ottenuto con questo personaggio, che è un Nicky Vendola in versione astrologo. Cari politici in cerca di segnali celesti, anche oggi il vostro Nicky vi legge le stelle. Che alla politica non fa male sapere cosa dice il quadro astrale. Se sei di destra o di sinistra non importa, le stelle ora bussano alla tua porta. Per i nati il 2 gennaio come fini, avete Saturno contro. In amore poi non è un momento di relazioni porta a porta. Salute. Potrebbe pungervi una vespa. Chi trova un amico trova un tesoro, ma in questo momento voi non avete né un amico né un tesoro. Per i nati di settembre come Bersani, le stelle dicono prudenza, attenti a ciò che dite. Non avventuratevi in frasi tipo «ho raccolto 10 milioni di firme, cacceremo Silvio». Potreste fare delle figure di Marte. E come di consueto, scegliamo il segno fortunato del giorno, che è la Vergine. Per quelli della Vergine come me, relax, amore e salute. Ma evitare le ASL locali se state male. Rivolgetevi piuttosto ad un omeopata. Infine, per i nati il 29 settembre, come Berlusconi, amore, tre palle, anzi quattro, se si aggiunge quella che rubi è 2 anni più vecchia. Bene, per oggi è tutto. E ricordate, se la politica ti stressa, con le stelle, Niki, ti rilassa. Questo è tratto dagli Sgommati. Esatto. Barti, ma che è venuta l'idea di Vendola astrologo? Perché è straordinario, è vero, sembra che lo possa davvero fare. Ecco. Sì, sì, è vero. Beh, un'idea nata insomma con gli autori poi degli Sgommati, Paolo Maricone in primis, che è il capoautore, perché poi ci riuniamo e appunto tracciamo quelli che sono le possibili sfumature che Vendola può prendere. Come vedi, insomma, è un personaggio veramente poliedrico dal punto di vista insomma interpretativo. Ma anche tu, io ho scoperto che sei anche un prestidigitatore, è vero? Sì, bravo. Ma Stefano, ma sei informatissimo. Sempre ma ci dove sono. Ho chiesto a Vendola direttamente, ma posso dare informazioni. Cambio di che cosa? No, assolutamente. No, dico. Rido ancora per il supporto politico? Rindo ancora per gli Sgommati, perché c'è questo rapporto fra Vendola e Bersani che non si sa mai dove voglia andare a parare, no? Allora esatto. Sì, ridere questa cosa. No, Barti, questa vena così magica nasce da cosa? Allora, io nasco come prestidigitatore. Sì, hai cominciato da lì. Sì, ho cominciato da lì perché io sono sempre stato affascinato dalle arti magiche, dalle arti magiche intese appunto come sì, gioco, sì, l'illusionismo per intenderci. L'illusionismo, prestidigitatore. L'illusionismo è una branca della magia. L'illusionismo è tutto ciò che sono giochi da pacco che adottano cosiddetti dei trucchi meccanici, ok? Quindi ti creano l'illusione che so che io faccia sperare una cosa, però questa illusione è data insomma dall'utilizzo di alcuni trucchi cosiddetti meccanici, mentre io sono appassionato, oltre all'illusionismo lo faccio, ma anche di pickpocket, che sarebbe l'arte di manipolare oggetti senza l'utilizzo di alcuni trucchi, insomma, quindi l'arte più specificatamente del close up si chiama. Guarda Barti, noi abbiamo fatto 2 puntate sull'illusionismo con Raul Cremona, figurati. Ah, quindi siamo sei ormai, occupati. Vuol dire, abbastanza sì. Informato. Ma la curiosità è che per esempio molti portano proprio l'illusionismo, anzi la prestidigitazione, come vuoi chiamarla tu in questo momento, negli ospedali proprio, quindi penso anche insieme al sorriso dei clown, tra virgolette, ecco, non immaginateli per forza col naso rosso, ci sono anche gli illusionisti, chiamiamoli così per rendere le cose un po' più semplici, che manipolano oggetti e fanno apparire e sparire cose, quindi ancora facendo spettacolo negli ospedali. Quindi credo che la tua associazione si occupi anche di questo. Sì, Stefano, hai detto una cosa molto importante, cioè che poi spesso per mancanza di informazione in generale insomma si tende a non evidenziare. Cioè il clown terapeuta in realtà è un operatore sociosanitario che fa un percorso di studi che va dalla psiconeuroimmunologia alla psicologia dell'età evolutiva, questa è la parte un po' più teorica, un po' più insomma di formazione, all'igiene medica, all'igiene sanitaria, e fa degli studi anche in parallelo un po' più pratici, un po' più divertenti, che sono la clowneria, la prestidigitazione, la micromagia, e quindi unendo l'informazione medica all'informazione ludica, diciamo così, l'informazione artistica, vedi che ne esce appunto un operatore sociosanitario il cui fine è sì di far ridere, però ricordiamo la risata non è il fine ultimo, cioè il clown terapeuta quando entra in ospedale il fine ultimo è quello di portare l'emozione del paziente, chiamiamolo così, insomma, del bambino sì, o dell'adulto che sia, spostarla da un dal negativo in positivo, perché noi pensiamo, siamo fermamente convinti che l'emozione, se portata in positivo, poi trasporta il pensiero, il corpo. Indubbiamente, l'anima. è un autoaiuto che molto spesso funziona. E tra l'altro ricordo per esempio a te e agli ascoltatori che Luca Bono, che ha vinto il campionato di magia l'anno scorso in Italia, Saint Vincent, si è avvicinato all'illusionismo proprio quando era sul letto di un ospedale a causa di un incidente, per cui molti hanno scoperto quest'arte proprio così, insomma, non è un assioma, però voglio dire, è vero che quando la si porta appunto in ospedale, poi per qualcuno potrebbe diventare anche un motivo di interesse di vita. Bart, io ti ringrazio, ti saluto molto. Io andrei avanti ancora, ci sono poi gli altri ospiti che incombono, ma soprattutto tanto ti ascoltiamo su RDS ogni mattina. E poi, per chi guarda Gli Sgommati, sapete che la voce di Nicky Vendo, del personaggio di gomma, è quella di Bart Colucci. Grazie a te. Ciao. Stefano, grazie mille e complimenti per il programma. Ti ringrazio, buona domenica. Andiamo avanti, tra poco entreremo invece nel vivo del come si fa, di chi c'è alle spalle di molti comici famosi. Il riposo del guerriero. 10:35 minuti, già io rido, non lo so, rido pensando a questa sigla, molti se la ricorderanno. La sigla di Drive-In, forse un po' è cominciato tutto da lì, insomma, molti comici hanno iniziato a essere conosciuti, famosi, i locali si sono riempiti di comici, le persone hanno cominciato ad andarli a vedere fino a oggi. Matteo Andreone, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica. Allora, Matteo è il direttore artistico e responsabile didattico dell'Accademia Nazionale del Comico di Milano. Allora, io volevo cominciare proprio da Drive-In, nel senso, riesci in pochi secondi, domanda complicatissima, a raccontarci cos'è cambiato secondo te da quegli anni, che erano gli anni 80, fino a oggi, perché la comicità è molto cambiata, i comici lo sono anche cambiati. Allora, beh, innanzitutto i tempi. Allora, diciamo che Drive-In è arrivato alla fine di un periodo di preparazione dei comici. Tutti quelli che facevano Drive-In erano persone che avevano una gavetta massima di ventennio di attività. E che sapevano tenere la scena per un'ora e mezza, diciamo così. Assolutamente, erano persone molto preparate. Il Drive-In è riuscito a dare una formula nuova a tutti questi comici, quindi mettendo anche un pubblico, una sorta di claque finta in scena, che comunque andava benissimo negli anni Ottanta, e dando possibilità dei comici che comunque avevano frequentato locali, si erano fatti le ossa non solo al Derby ma in tutti i locali italiani di cabaret, quindi avevano affrontato tutti i tipi di pubblico, di arrivare in televisione. Oggi è un po' invertita la cosa, nel senso che c'è talmente tanta comicità in televisione che uno ci mette un po' meno arrivare alla popolarità televisiva. È un po' più duro mantenerla perché tanti sono i comici, quindi il repertorio uno in genere in questo periodo storico lo costruisce dopo essere diventato popolare. Ecco, fondamentalmente oggi, correggimi se sbaglio, nasce prima il personaggio, per cui nasce il tormentone del personaggio, la macchietta, esatto, che riesce a tenere il palco 30 secondi, cioè il tempo di quel passaggio, di quella battuta. Esatto. Poi costruire invece un vero spettacolo che deve durare un'ora e mezza, perché a teatro quello è, insomma, sul palco, quantomeno diciamo mezz'ora, ecco, se mettiamo due comici in una serata o tre, è tutta un'altra cosa, è molto più difficile. Diciamo che ormai il comico si adatta, vedo, proprio all'inizio, quando inizia proprio a fare cabaret, a fare teatro comico, a fare comicità, quello a cui punta è comunque il pezzo di 3 minuti, perché di 2 minuti è massimo, perché poi la televisione è fatta di spot pubblicitari, quindi servono persone che immediatamente catturino l'attenzione a livello anche talvolta un po' macchiettistico e che poi riescano subito a prendere il pubblico che si ricorda dei loro tormentoni, delle loro gag. Ecco, ma non c'è solo la televisione, poi bisogna portare la propria esperienza sul palco e cercare di fare delle serate, e qui è più difficile. Sì, è più difficile. difficile perché chiaramente allora di cabaret ce n'è tanto, ci sono tante persone che fanno cabaret, locali ce ne sono tanti anche di locali, però ovviamente il locale non può dare, non può garantire un cachet come un teatro, uno non può ambire subito a un teatro anche perché, ripeto, non ha un repertorio. Fare le serate per un comico, per un cabarettista può essere complicato perché devono sempre muoversi in gruppo, quindi c'è un fiorire di laboratori. Quindi di luoghi dove le persone possono provare di fronte a un pubblico che sa che sono alle prime armi, però ci sono sempre appunto quei 10-12 comici che replicano un po' il cliché televisivo, quindi prima un comico, poi l'altro, poi subito l'altro, l'altro ancora, quindi ci sono spettacoli fatti di comici che ognuno dei quali fa 3, 4, 5 minuti. Ecco, quindi così la formula potrebbe anche funzionare. Matteo, chi è che viene all'Accademia Nazionale del Comico? Che tipo di persone, che tipo di età, cosa sperano soprattutto quelli che cominciano a frequentare dei corsi? Allora, allargo leggermente il discorso, perché l'Accademia del Comico si occupa di umorismo e di comicità proprio quasi a 360 gradi, e ci sono quindi tre categorie di persone che si avvicinano all'Accademia. Ci sono i ragazzi che vogliono fare i comici, quindi l'attore comico, la comicità di palcoscenico, o a livello autorale, o a livello registico, o la maggior parte a livello proprio attoriale, quindi salire sul palco. Poi ci sono quelli che invece vogliono utilizzare l'umorismo semplicemente per, come risorsa per il proprio benessere. Quindi persone che dallo studente alla casalinga, all'impiegato, al manager, intendono avvicinarsi all'umorismo ma senza velleità di palcoscenico. E poi ci sono quelli che invece lo vogliono utilizzare per lavoro, quindi per la comunicazione, migliorare la comunicazione, aumentare la creatività, gestire i conflitti, i rapporti di lavoro, anche per questioni proprio di marketing, ad esempio. Infatti ne parleremo anche più tardi della satira in azienda, che comunque è qualcosa che si sta sviluppando in questo momento. Un modo di affrontare la realtà aziendale con la comicità è un modo nuovo che si sta imponendo. Nuovo in Italia, diciamo che in qualche altro paese già da qualche anno Noi come sempre, noi ci arriviamo dopo, ma ci arriviamo, sai, poi diventiamo magari anche più bravi. Senti Matteo, che età ci sono? Dal ventenne, quindi dalla persona di 20 anni, noi abbiamo un limite minimo che è 17 anni, sì, va bene. 17 anni diventa difficile, fino alla persona di 70 anni. Quindi tutte le età. E più donne o più uomini? Inizialmente era il 99% uomini. Come adesso al solito? Si è invertita totalmente. Bene. Adesso si è invertita totalmente, sono addirittura più donne che uomini. La cosa è molto piacevole. Senti, adesso ti faccio ascoltare una barzelletta. È raccontata da un personaggio particolarmente conosciuto, popolare direi, okay. Molto. E poi tu, così senza entrare proprio in un commento che abbia a che fare con la politica, ma semplicemente strutturale, mi dici secondo te cosa correggeresti del suo modo di raccontare le barzellette. C'è un aereo, a bordo Obama, Berlusconi, il Papa, un assistente del Papa. L'aereo si guasta, i piloti decidono che ci si deve gettare col paracadute, ma ci sono solo 5 paracaduti, ahimè. I piloti ne prendono 2 e dicono ai 4 passeggeri: ci sono 3 paracaduti, fate voi. Obama prende il primo, naturalmente dice: sono l'uomo più potente del mondo, questo spetta a me. Berlusconi, sapete com'è, prende il secondo e dice: io sono l'uomo più intelligente d'Europa e quindi spetta a me. Il Papa dice: io sono il Papa, ma tu sei giovane, prendilo tu. Ma il giovane dice: no, santità, sono rimasti 2 paracaduti. Come mai? Perché l'uomo più intelligente d'Europa si è buttato col mio zainetto. Auguri e allegria. Parte paracaduti e il zainetto, ma è una piccola cosa. Sarebbe paracadute anche al plurale e lo zainetto. Ma vabbè, adesso tu sei dal molto, punto molto no, pignolo, beh, no, vabbè, ok, no, nel senso va bene, ma è solo per. Invece adesso non volevo sorridere, volevo spiegare il tempo comico, perché qui manca. Non lo so, allora volevo capire che cosa manca se fosse un tuo allievo, insomma, cosa che gli diresti? Allora, innanzitutto, il mio proprio della battuta forse un po' l'addizione, però per non far riconoscere. Vabbè, ma quella, allora, sai, per un comico ci può anche no, stare, no, come no, anzi mi piace. No, ci mancherebbe altro, anzi, se uno non ha un difetto di pronuncia, se lo deve inventare certe volte. Esatto, teniamocelo. Allora, direi che persone come lui, che raccontano barzellette, hanno una sorta di senso di autocompiacimento nel dire adesso, cioè, si vede molto che lo fanno per marketing, cioè stanno vendendo comunque un'identità, la propria. In realtà bisogna anteporre l'umorismo alla propria personalità, per cui l'umorismo non è una cosa che si possiede, ma è una cosa da cui farci possedere. Per cui io, sentendo questa barzelletta, io riconosco in lui l'obiettivo mirato di farmi ridere, cioè non si sorprende, sorride già dall'inizio e ha subito questo dominio della situazione. Io correggerei proprio questo, cioè essere più spontaneo nel dire la barzelletta perché a uno piace la barzelletta, essere più spontaneo nel dirla e non farsi vedere troppo autocompiacente, insomma non deve dare l'impressione di volerci far ridere. Sei stato molto chiaro e anche molto utile in generale per tutti gli ascoltatori ad esempio così in qualche modo si mettono a raccontare barzellette, ma anche nella vita, al di là di voler far ridere o meno, no? Il fatto di interpretare qualcosa o qualcuno e saper già cosa si vuol fare, quindi non sorprendi più gli altri, perché non sei sorpreso tu per primo. Quello è un po' il gioco. Devi fallire un po' per fare il comico, dare il senso che stai fallendo un po' la missione, poi li sorprendi alla fine invece riuscendoli. Quasi sorprendendo anche te stesso. Sorprendendo te stesso. Allora, adesso gli ragionamenti sul traffico e poi un altro esempio di barzellettiere per capire invece di che cosa funzionava. Il riposo del guerriero. 10:46 minuti con Matteo Andreone, direttore artistico e responsabile didattico dell'Accademia Nazionale del Comico di Milano. Stiamo parlando proprio di comicità, di quello che c'è da fare e da non fare. Stiamo analizzando le barzellette. Adesso volevo farvi ascoltare, anche a te Matteo, invece un grande barzellettiere, eccolo qua. Partiamo senza tanti preamboli. C'è quello che esce dall'autoconcessionaria con la sua macchina nuova, tutto felice, sto bel macchinone, orgoglioso. Esce, sbaglia manovra, si infila in un negozio, sfonda tutto, spacca tutto, scende dalla macchina, la guarda, 24 cavalli, se ne fosse fermato uno. Coniugi genovesi, anziani, lei parlo. Cosa mi regali per il mio compleanno? L'anno prossimo ti regalo un paio d'orecchini e quest'anno i buchi nelle orecchie. Ecco, un grandissimo Gino Bramieri che non ha bisogno di essere guardato, basta ascoltarlo per ridere. Perché? Perché uno si ricorda la sua maschera, vabbè, insomma. Innanzitutto è molto fulminante, quindi il suo autocompiacimento parte un po' autocompiacente. Eh sì, perché sorride già dall'inizio, sa già dove vuole arrivare, insomma. Sì, però in modo diverso. Lui sorride, ma sorride come spettatore della cosa, non come autore della cosa. Lui sorride come se anche lui si mettesse in quel momento dalla parte dello spettatore, del pubblico, e ride già perché è già stato spiazzato e continuerà a essere spiazzato. E poi alla fine diventa serio. Vedi che alla fine nel fulminare, alla fine torna serio e diventa veramente spiazzato e cambia espressione. Quello che invece il barzellettiere di prima... Chiaramente facendo un altro mestiere non è riuscito a fare, sono barzellette suggeritegli da un autore che lui interpreta come venditore più che come comico, come umorista. Si vede che non sono cose che vengono da lui, mentre le Bramieri sono cose che vengono da lui, dalla sua idea, dal suo colpo di genio, dalla sua genialità. Quindi anche lui si sorprende mentre la racconta. Ecco Matteo, sei stato veramente chiaro e credo anche utile davvero a capire noi stessi la nostra vita quotidiana. Matteo, tornando per chiudere all'Accademia, la maggioranza di persone viene per trovare un futuro, uno sbocco, oppure semplicemente per divertirsi e capire qualcosa di se stessi, come spesso si fa quando si va a scuola di teatro, faccio un esempio. Ma, sai, un po' tutte e due. In realtà uno capisce poi durante il percorso, in genere uno, cioè, sai, non si capisce perché uno che suona il pianoforte non è che vuole diventare subito famoso, vuole imparare a suonare il pianoforte. Invece uno che vuole fare il comico, il suo obiettivo primario è quello di diventare subito famoso, perché questa è l'impressione. È lì che volevo arrivare, è proprio quello, no? Dice, io faccio ridere i miei amici, quindi adesso farò ridere. Esatto. Una platea intera. Non si capisce perché in realtà bisogna farsi veramente staccarsi le ossa. Ma perché il messaggio che passa è quello. Però cambiano idea nel corso d'opera. Cioè, capiscono che comunque è una cosa più difficile, una cosa di formazione che ti deve proprio fare cambiare atteggiamento nei confronti della realtà. Sai, non basta essere simpatici. La simpatia a volte non fa rima con comico. L'umorismo e la simpatia sono due cose diverse. Uno, se è molto simpatico, può non essere un umorista, è semplicemente uno che coinvolge. Guarda, io credo che Sgarbi, che così a pelle non è che sia proprio uno simpatico, ma è un grande umorista. Quindi uno può riuscire veramente a far ridere pur non essendo particolarmente simpatico, nel senso che lo possiamo intendere. Quindi. A volte uno molto simpatico, troppo simpatico, mi dà quasi fastidio, perché non è una voglia di prevaricare, di essere autoreferenziale. Mentre l'umorismo non deve essere autoreferenziale, è un qualcosa che doni agli altri, inventando sul momento delle soluzioni geniali che spostino il punto di vista di tutte le persone che ti ascoltano. Quello simpatico ha un unico punto di vista, se stesso, quindi quello di essere al centro dell'attenzione. E torniamo ancora una volta lì. Matteo, mancano gli autori comici secondo te oggi? Sì, direi di sì. Nel senso che non abbiamo una cultura dell'autorato comico, perché probabilmente c'è meno esigenza in Italia che non so, negli Stati Uniti ad esempio, dove comunque l'autore è considerato, riconosciuto, stimato, uno può far parte di sitcom, di tantissime situazioni di cinema, di altri comici. In Italia un po' meno, ognuno fa da solo, no? Fa per se stesso. Però poi ci sono alcuni autori importanti che però magari a volte non scrivono per i comici o fanno romanzi, fanno racconti, insomma è più variegato, è meno sistematizzato. Quindi cerchiamo di studiare anche questo e adesso parliamo proprio con un autore. Grazie Matteo Andreone, buona domenica. Grazie, ciao e buona continuazione, perché Matteo aveva un laboratorio in questo momento che ha lasciato per noi. Claudio Fois, ciao, buongiorno, grazie. Buongiorno, volevo approfittare per salutare Matteo che non vedo da un po' di tempo e vabbè approfitto, lo faccio così, in contumacia. Va bene, forse non ti starà ascoltando perché se non aveva la radio accesa il telefono ormai abbiamo agganciato, ma glielo riferirò. Allora, Claudio Fois, ecco, magari molti diranno, ma chi è questo qui, no? Perché invece dobbiamo fare una valanga di nomi famosi, ecco, da Michele Foresta, che è il Mago Forrest, Ficarra e Picone, molte delle cose che ascoltate in Striscia la Notizia, perché dietro i comici ci sono gli autori. Lo vogliamo gridare, mettiamo uno stendardo, facciamo qualcosa. Esattamente, più che gridarlo, diciamo che basta il nome nei titoli di testa o di coda, insomma un riconoscimento di questo tipo. Poi l'autore per sua natura sta dietro le quinte, appunto, poi avremo modo adesso di snocciolare, non voglio anticipare argomenti e cose, però insomma sì, esistono delle figure professionali che scrivono o aiutano i comici a scrivere le battute. Che spesso sono la forza, perché la difficoltà innanzitutto è quella di conoscere bene il comico col quale si ha a che fare, perché bisogna scrivere cucendo un testo su di lui. Esatto, ma allora ci sono alcune caratteristiche che devono essere peculiari dell'autore comico. Uno, l'umiltà, diciamo così, e l'adattamento, perché è chiaro che magari c'è una spinta a voler fare o dire quello che uno pensa, però poi lo deve fare un altro, è lui che ci mette la faccia, quindi io devo accettare, o l'autore deve accettare, che quello che per me è bellissimo poi venga o negato o modificato e adattato, e quindi ci devo stare, insomma. Ma è anche un piacere quando i comici sono di grande qualità. Quello sicuramente, perché poi magari una battuta che sembra non così comica detta da una persona in particolare diventa straordinariamente comica, insomma. Esatto, e poi una cosa scritta non è mai come una cosa detta. Faccio un esempio di Ficarra e Picone, per esempio. Io uso questa tecnica, questo trucco, che poi quando faccio dei workshop dei corsi, è una cosa che dico. Allora, io scrivo una battuta e poi la ripeto a voce alta per vedere se è possibile dirla, nel senso che a volte io mi trovo ad avere il fiato che mi manca perché ci sono troppi incisi, perché a volte la notizia magari va spiegata, quindi va fatta una premessa, e mi rendo conto che non si può dire quella battuta. Allora, nel caso di Ficarra e Picone, o loro la spezzano, quindi uno fa la premessa e l'altro fa la chiusa, come si chiama in gergo, diciamo, oppure bisogna lavorare di sintesi, perché la cosa scritta è diversa dalla cosa detta. Quindi, qui chiudo, il comico deve sentirsela una battuta, per cui va bene magari come l'ho scritta io, però lui la dice un congiuntivo in meno, perché la porta al tempo presente o con l'imperfetto, che magari in italiano è scorretto, però suona meglio. Ecco, Claudio, mancano un po' gli autori, come diceva Matteo, in Italia? Sì, allora, per due motivi. Uno, perché in Italia in generale non c'è un'organizzazione di tipo americano di nessun tipo, cioè nel senso non ci sono scuole di recitazione che facciano fare un percorso, che indirizzino, a parte l'Accademia d'Arte Drammatica, strutture di questo tipo, però sono poche. E poi perché effettivamente c'è una mancanza di, non so, appunto, di regolamentazione di figure professionali, e poi sembra che se uno è simpatico deve fare per forza il comico. Non è quello, detto. No, infatti quello è un grande problema. Non è che ci sia molta più voglia di apparire che voglia invece di stare dietro le quinte e lavorare per gli altri? Assolutamente sì, infatti siccome uno fa questo mestiere è ancora arte, diciamo, c'è un briciolo, un lumicino di arte c'è ancora. E c'è la vanità. Io per primo menzionavo il discorso dei titoli di testa e coda, perché al di là del cachet, al di là del compenso, che è quello che è sacrosanto, però il gusto, la gratificazione, la soddisfazione di vedere il proprio nome, per dire io c'ero, io ci sono, cioè quella cosa è anche mia, è anche un figlio mio, è naturale che c'è. Quindi è chiaro che la vanità la fa da padrone, però se uno riesce a distinguersi come autore, a fare delle mosse giuste dell'ambiente o anche fuori, si può diventare dei grandi attori, tipo Amurri e Verde o Antonio Ricci o altri che Fabio Di, per dire uno giovane, insomma, ci sono le possibilità per poter emergere anche come autore. Non è che se uno sta dietro le quinte è destinato a fare il ghost e basta. Certo, però insomma è importante sapersi mettere lì anche, senza esagerare, sennò poi alla fine si eccede e non si riesce neanche più a fare bene l'autore, no? Quindi è importante saper stare anche al proprio posto in questo senso. Claudio, c'è il GR adesso e lo devo lanciare, però ti vorrei tenere qui perché vorrei raccontarti ci raccontassi come hai cominciato, perché forse molti ascoltatori sarebbero anche incuriositi dal fare questo mestiere e non sanno da che parte iniziare. Tra poco il riposo del guerriero. Le 11:07 minuti, non ci resta che ridere. Questo è il titolo della puntata di oggi del Riposo del Guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, e dovrebbe esserci ancora Claudio Fois al telefono. Claudio, sì, sei sopravvissuto? Sì, la linea è a retto. Autore teatrale televisivo, stiamo parlando proprio di autorato comico, e la domanda era: come hai cominciato, Claudio? Dunque, ho cominciato da appassionato di comicità, per cui da spettatore, da osservatore, vedendo dai film di Totò a qualunque altro tipo di cosa comica, e desiderando in cuor mio di essere lì, cioè di fare quello, di essere al posto loro. Quindi diciamo che come prima cosa, appunto, per chi vuole cominciare, intanto va esplorata la propria predisposizione, cioè se uno ama l'umorismo e se è in grado naturalmente di essere simpatico, ma non puoi fermarsi a quello, chiaramente, nel senso che io poi raccontavo agli amici dalle barzellette modificate, deformate, infatti ero un ammiratore anche di Walter Chiari che le faceva diventare atti unici. Sì, anche perché lui era spesso un atto unico prima di andare in scena. Esatto, che a volte il finale era pure debole rispetto a tutto quello che ci aveva fatto costruito vivere intorno, certo. Però ecco, quello è un po' il senso anche di diventare autori. Cioè non ripetere pedissequamente una cosa, ma farla propria e crearci intorno delle cose. Per esempio anche raccontando, non so, avventure di viaggi agli amici, tornato da qualche viaggio, così io caricavo con immagini e con battute vere e proprie cose, non so, per esempio in Thailandia c'era un'umidità fortissima e i pesci nuotavano nell'aria, le galline facevano le uova già sode, insomma. Partivo con queste immagini per raccontare e descrivere una situazione che nasceva neutra, quindi c'è molta umidità, questo era il senso, e però poi dopo piano piano appunto ho cominciato a scriverle queste cose, cioè a buttarle su carta e a dirle davanti ad un pubblico, cioè mi è capitata l'occasione, non me la sono cercata perché non ti viene a cercare nessuno, questa è una, sfatiamo questa leggenda. Mi sono venuti a chiamare per caso, non comincia mai niente per caso. Bravo. E se comincia per caso, però deve continuare con un grossissimo lavoro dietro. Quindi sono andato, ho scoperto il cabaret e sono andato a fare una sorta di provino in un locale, e come appunto oggi ci sono i laboratori, all'epoca era un po' ante litteram questa cosa. E quindi niente, ho detto delle mie cose facendo ridere e sorridere, quindi ho cominciato facendo il comico e facendo il cabarettista, però amavo soprattutto scrivere le cose che dicevo, mi dava soddisfazione e dei colleghi hanno visto che io potevo dare loro una mano, insomma, nell'aggiustare un pezzo, nel fare una battuta ex novo, fatto sta che ecco, ho cominciato collaborando con altri colleghi, quindi da qui poi sono approdato a Zelig, dove mi conoscevano come comico presentandomi o comunque proponendomi come autore, e quell'anno serviva proprio rimpolpare la squadra perché Zelig aveva fatto un salto in quella circostanza. Quell'anno, sì. Quindi insomma alla fine diciamo che, però la cosa importante, cioè, quindi diciamo che il percorso, ecco, l'ho fatto sostanzialmente senza scuola se non quella della pratica, del palco, però è importante invece studiare in assoluto, perché altrimenti si rimane soltanto simpatici. Ma indubbiamente poi in assoluto più cose si sanno, più si conosce, e anche nel proprio mestiere, più lo si migliora, soprattutto poi chi scrive di comicità deve anche essere appassionato di molte altre cose per poter mettere insieme i pezzi e riuscire a scrivere un testo comico. Esatto, no? Dunque sennò... per quanto mi riguarda, sempre parlando di workshop, perché poi ho fatto con l'esigenza di trasmettere a qualcun altro la mia esperienza, io non sono né un docente, né un insegnante, niente, sono uno che è professionista. Ho fatto chiaro anche a me determinate cose, quindi le ho un po' razionalizzate, per cui quello che uno dei requisiti che servono per scrivere è sicuramente la cultura, divisa in comunque insomma in due aspetti, generale e specifica, ovvero del proprio campo. Bisogna essere appassionati, sapere, conoscere quello, certo, che fanno gli altri. È generale perché comunque... È generale perché non posso non fare una battuta sull'attualità. Ma poi devi poter cogliere da questo o quell'altro, altrimenti poi così il testo rimane veramente povero da tanti punti di vista, quindi è importante sapere. Infatti lo spunto, ecco, diciamo una domanda che fanno spesso, ma come gli vengono? Una prima domanda che mi fanno per esempio è: ma i comici non se ne scrivono da soli? Perché quando dice: che fai, l'autore comico? Ah, davvero, ci scrivo le battute per i comici, ma i comici non se ne scrivono da soli? Questa è la prima domanda che mi fanno. La risposta è sì, parte da loro, ma poi ci vogliono degli autori per migliorare, certo, per anche mantenersi nel tempo, perché insomma questo mestiere è così. La vena un po' si esaurisce un pochino, se c'è una mano è sicuramente meglio. E comunque abbiamo capito che si può nascere comici e continuare poi autori e anche bravi. Claudio, ti devo salutare perché abbiamo altri ospiti che stanno aspettando, ma è qualcuno che conosci sicuramente, perché oggi poi il mondo dei comici è proprio quello. E intanto ti ringrazio davvero. Va benissimo, grazie a voi dell'ospitalità, è stato un piacere. Buona domenica, mio Claudio Fois, e passiamo a un altro Claudio insieme ad altri nomi tipo Luciana Littizzetto, Enrico Bertolino, Ficarra e Picone, Franco Neri e via dicendo. Claudio Calì, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica a te e a tutti. Allora, Claudio Calì è il patron di un festival concorso che è il Bravo Grazie, che ha iniziato nel 1991 in onda su Rai 2 e su Sky anche, e che ha promosso molti comici che poi sono diventati particolarmente famosi. Sì, diciamo che abbiamo avuto, scusa il bisticcio di parole, la ripetizione, la fortuna di portare fortuna sin dall'inizio a chi ha partecipato. Nel 91 vinse un'allora sconosciutissima e giovanissima Luciana Littizzetto, sì. E da lì insomma aprimmo la strada a tanti altri comici. Non c'era ancora il fenomeno Zelig nel senso televisivo del termine, anche se Gino e Michele già erano tra i protagonisti della comicità italiana. E quindi c'erano pochi spazi ancora di occasione per i comici. Bravo Grazie divenne uno di questi all'inizio degli anni 90. Claudio, senti, rispetto al 91, dal 91 a oggi, sì, c'è qualcosa che manca nei comici nuovi o le cose non sono cambiate? Beh, oddio, Zelig è stato un fenomeno in tutti i sensi, e lo è ancora adesso a livello sociale, nel senso che ha scatenato in tante persone la voglia di divenire comici, anche, lo dico senza alcuna vena polemica nei confronti di molti comici, anche con innanzitutto la prima istanza, il primo desiderio di far soldi con la comicità, insomma, e diventare celebri con un famoso tormentone. E quindi forse Zelig ha generato questa inflazione di comici o presunti tali. Una volta ce n'erano magari meno, e non vorrei fare il nostalgico, però sono realista, ed erano anche più preparati culturalmente, riagganciandomi a quello che diceva Claudio Fois prima. Sì, certo. Adesso forse trovo meno preparazione culturale in generale, cioè, meno voglia ci di si improvvisa, ci si improvvisa di più, si costruisce meno. Si improvvisa meno. Di più, si pensa che facendo ridere gli amici a tavola si possa essere in grado di andare a fare Zelig o comunque di presentarsi al cospetto degli autori di Zelig. E forse questo è il difetto, perché a parte la famosa gavetta di cui tutti parlano, ma pochi ormai utilizzano e attraversano. Bisognerebbe informarsi, crescere culturalmente prima di cercare di vedere la realtà distorta, ecco. Ci sarà un'inversione di tendenza? Ma non lo so, non... qui sfociamo nella sociologia, secondo me, quindi non lo so. Vedremo, allora la domanda è, vedremo potrebbe il bravo... Potrebbe essere auspicabile, forse sarebbe certo. Auspicabile. Ma magari forse. Sì, speriamo di sì, anche le cose che stiamo dicendo nella puntata di oggi. Vedremo il bravo Grazie quest'anno ancora? Ma sì, bravo Grazie ovviamente sta, non dico che stia seguendo le mode, anzi sta come al solito percorrendo una linea di controtendenza. Noi stiamo cercando in questi ultimi anni di puntare sempre più sui festival del circuito, perché sono la vera risorsa non solo di bravo Grazie ma credo un po' di tutti i ragazzi, perché esibirsi davanti a un pubblico a volte spietato, confrontarsi con colleghi tra virgolette, aiuta a crescere. Io ho visto persone poco comiche all'inizio che dopo un anno di confronti nei vari festival si sono migliorate, si erano certo. trasformate, erano uh-huh. migliorate, sì. Altri invece cascare brutalmente, non solo in senso metaforico. Quindi bravo Grazie vorrà, seguirà sempre più questa strada, la valorizzazione dei ragazzi attraverso i festival e poi appunto la garanzia agli stessi di una vetrina nazionale, perché poi bravo Grazie è anche questo. Certo, beh insomma speriamo che i comici aumentino, ma aumentino quelli che sanno esattamente quello che stanno facendo con un pizzico di preparazione in più, anche più di un pizzico. Grazie Claudio Calini, grazie. Davvero grazie, buona domenica. E andiamo avanti, gli aggiornamenti sul traffico e torniamo a parlare di comicità. Il riposo del guerriero. Sempre pronti a parlare di comicità, di comici ce ne sono ovviamente stati tanti, qualcuno ha vinto concorsi, altri invece non li hanno vinti, ma comunque sono diventati famosi. Non è detto che vincere porti per forza poi alla notorietà, e a volte invece non vincere, lo dimostra Vasco Rossi, nel caso dei cantanti, può significare comunque notorietà dopo, ammesso che portiate qualcosa di particolarmente efficace. Tra pochissimo continuiamo a parlare di comicità, ma c'era un gruppo diventato molto famoso, che erano i Di Rotta su Cuba, che aveva scritto una canzone proprio sulla risata. Sempre di corsa noi, non ci fermiamo mai, neanche un minuto a pensare, io scendo qui, andate avanti voi, perché mi viene da riderci su. Detto, no? Per il bravo Grazie, per esempio, al bravo Grazie hanno vinto tante persone, uno non ha vinto affatto, però è diventata famosa, ha avuto molto successo. Beppe Braida, ciao. Ciao, buongiorno, grazie di questa bella presentazione. No, è vero, perché sai, non è detto che vincere debba per forza portare al successo. Come Vasco Rossi diceva, aveva perso a Sanremo, forse era arrivato anche ultimo e poi guarda cos'è diventato. Quindi ti ringrazio di avermi paragonato al Vasco versione comicità. Vedi, senti, io ho cercato come un matto profilatico, ma non l'ho trovata da nessuna parte. Quante copie avete stampato di quella canzone? Credo una. credo una e non ce l'ho neanche io. Pensa te come sono messo. Ma ti ricordi? Ma ti ricordi come era il ritornello, l'inciso, qualcosa? Sì, deve essere profilattico, insegna tu a far l'amore senza tabù, tabù, tabù, una cosa di questo genere. Senti che testo, è bellissimo. Anche Leopardi dei bei tempi. Era diciamo. Chiaramente un festival, anche questo era il festival di San Scemo, se non mi sbaglio. Esatto, esatto. Ma avete vinto? O neanche no, quello? No, non abbiamo vinto neanche lì, per dire, vedi, che alla fine non vincere le cose forse porta bene. Assolutamente sì, se si è bravi, indubbiamente porta questo. Allora, Beppe, tu ti occupi di tante cose, ma ti occupi di comicità anche per chi magari non guarda la televisione, nel senso che stai conducendo spettacoli a Torino, se non mi sbaglio, in questo momento, vero? Con un gruppo veramente adesso riprenderà un nuovo... Sì. Sì, una trasmissione, su Italia 1. A Torino sto tirando su questo gruppo di comici, sono una trentina, devo dire tutti assolutamente nuovi, e sto diventando un po' il fratello maggiore di ognuno di loro, e sto per rimetterli in giro per il mondo, insomma, sperando di non fare troppi danni. No, no, ma assolutamente no, è tutt'altro invece, ma quello che volevo discutere con te era proprio questo, cioè la voglia di offrire la propria esperienza anche a chi sta cominciando. Sì, guarda, perché penso che poi alla fine sia fondamentale poter rapportarti con persone, perché l'ho fatto personalmente anch'io, con persone che hanno molta più esperienza di te e possono comunque insegnarti qualcosa. Cito una frase che era del grande Edoardo. Edoardo diceva: gli esami non finiscono mai, ed è vero, bisogna avere sempre la voglia e l'umiltà di imparare cose nuove, di affidarsi a persone che magari hanno più esperienza di te. Nello spettacolo questo è particolarmente vero. Beppe, hai fatto fatica a trovare questi comici, quanti ne hai visti per selezionarne poi una trentina? Sono un centinaio più o meno. Poi, come sempre, da lì fai una cernia, come si dice, sì, in italiano, certo, corretto. Sì, ce la mangiamo anche dopo. Ecco. Esatto, e abbiamo tirato fuori questo gruppo, che è un gruppo molto forte, perché poi oltretutto è un gruppo che arrivano da tutta Italia, quindi dalla Lombardia, dalla Sicilia, dall'Emilia Romagna, ci sono i piemontesi ovviamente, e sono contento perché già due di loro sono stati presi per Zelig e sono in onda attualmente a Zelig. Ecco, invece ti vedremmo su Italia 1, mi dicevi adesso? Sì, su Italia 1 a metà marzo parte questa nuova esperienza Saturday Night Live, in seconda serata il mercoledì dopo le Iene. Torno a fare una cosa che mi piace molto, che è la conduzione, perché io alterno gli spettacoli comici alla conduzione e incrociamo le dita, perché poi, come sempre, il Dio Auditel determina la tua vita oppure no. Va bene, comunque sei bravo, per cui l'Auditel ci interessa poco, ci interessa di più la professionalità e la competenza. Quanto è difficile fare il comico oggi rispetto a 20 anni fa, Beppe? Ma sai, oggi ce ne sono tanti. 20 anni fa forse non c'era questa ondata di, ma non solo di comici, di conduttori, di ballerini, di intrattenitori, di comici. Oggi abbiamo 2000 televisioni, diventa tutto molto più difficile e c'è una competizione altissima. Non sempre quello che noi vediamo in televisione però è indice di professionalità. No, spesso non è così, ecco. Alcuni ci arrivano per strada, proprio, che fanno male. Proprio non sempre è sottolineato. Grazie Beppe, grazie davvero, senti in bocca al lupo. Grazie a voi, buona domenica a tutti. A te e a tutto il tuo gruppo, ciao. Grazie davvero. Maurizio Accattato, ciao Maurizio, abbiamo pochissimo tempo purtroppo. Ballarini. Eccoci qua. Allora, parliamo velocemente di quello che accadrà a Milano dal 9 al 13 marzo. C'è il Milano Clown Festival quest'anno. Quante cose farete in questi giorni per la città? Guarda, ci stiamo allenando per dire ti voglio bene in tutte le lingue alle persone che incontreremo per strada per il Patch Day, che è il giorno che apre il Milano Clown Festival. Il Milano Clown Festival che si apre appunto il 9 con il Patch Day, che è un giorno dedicato a lui. E quindi ci stiamo allenando perché dobbiamo dire in tutte le lingue, sai, dura. Te veri ben. Ma voi cercate. Veri ben. Poi passiamo al te chiaro mucho. Poi passiamo. Cioè, dobbiamo praticamente studiarle tutte. Adesso siamo sul cingalese, è un po' un problema. Ecco, Maurizio, bisogna spiegare però agli ascoltatori cosa succede. Allora, certo. Voi andate in giro per la città, abbracciate una persona, giusto? No, la guardate in faccia. Prima la guardiamo in faccia. Prendiamo il viso, il loro viso nelle nostre mani, gli diremo guardandolo negli occhi: ti voglio bene. Te veri ben nella sua lingua, però. Sì. Anche se è un po' vietato in questo momento, ma noi lo faremo lo stesso. Va benissimo. Ma attenzione, abbiamo portato il più grande clown, diciamo, possiamo dirlo in segreto, uno dei più grandi al mondo, se non il più importante, che aprirà proprio il festival alla Casa della Carità, che è un luogo di confine, diciamo, importante per questa città, dove c'è Don Colmegna, che è un personaggio importantissimo, almeno per tutti noi, al di là della politica, e incontrerà le istituzioni milanesi, ma non solo, le associazioni di via Padova, gli stranieri e italiane, e tutti insieme mangeremo, faremo un pranzo, questo è un pranzo simbolico, tutti insieme con tutti i clown delle associazioni, e poi col Peak Bus, che è il nostro famosissimo autobus che si vedrà in giro passare per Milano in questi 4 giorni del festival, con la banda di Crescenzago, appollaiata in alto, sono persone straordinarie che suonano, e attraverseremo la via Padova. Poi andremo alla proiezione di Clown in Kabul, che si terrà al Teatro Dal Verme alle 16. Adesso il 15:30, scusa, ho sbagliato l'orario, in presenza di un'altra autorità, sono tutte autorità che ci stanno dietro a questo signore molto famoso insieme a noi. E poi andremo all'Istituto dei Tumori alle 18 per incontrare i bambini, insomma, quelli più piccoli, quelli meno fortunati. Infatti siamo partiti proprio così, guarda, parlando proprio di questo, di Patch Adams e di quello che si può fare con la capacità di sorridere, di far ridere anche quando le cose non vanno bene, e siamo tornati proprio lì. Maurizio, ti ringrazio, mi spiace per il poco tempo, voglio ricordare il sito, che, correggimi se sbaglio, è milanoclownfestival.tk. Esatto. Devo dire che però ci sono altri 3 giorni di spettacolo, tutti gratuiti, sono 15 compagnie da tutto il mondo, i Vallanzasca chiudono sabato sera questi 150 appuntamenti. Che si ascoltano sempre molto volentieri. Grazie, ecco, Maurizio Accattato. Grazie a te. E grazie per quello che fa, insomma, perché Maurizio da sempre crede nella capacità dei clown e quindi cerchiamo di dargli una mano. E adesso cerchiamo anche di sorridere, magari in cucina. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. La cucina che ci fa sorridere, che ci unisce anche, hai sentito che adesso i clown vanno in giro, andranno alle mense a mangiare con tutti, cercare di far sorridere anche quando le cose non vanno benissimo. Ma guarda, questo mi fa tornare alla mente un episodio del 1991, ora ti spiego perché ricordo così benissimo la data, perché io ho messo in scena allora una pièce teatrale sull'Artusi, perché era il centenario del suo libro famoso, e ti dirò chi erano i protagonisti. I protagonisti di questa pièce erano Claudio Bisio e Lallo dei Dig Dick. Lo facemmo a Roxy a Milano ed era una pièce che venne veramente molto ma molto divertente. Sto pensando che ora il centenario della nascita di Artusi sarebbe divertente rimetterlo in scena, ma ormai Claudio Bisio è diventato troppo famoso, allora non era così famosissimo, ma magari ti dice di sì lo stesso, e poi al posto suo ci potrà essere qualcun altro, che Dea Braida, l'abbiamo appena sentito, magari. Sì, fu una cosa molto divertente, che fece sorridere, non fece ridere, perché non è che fu dissacrante, però fu una cosa completamente diversa. Quindi ecco, mi veniva in mente questo abbinamento. Certo che la cucina fa sorridere, fa star bene. Ora non è comica sicuramente la cucina, anche se magari è comica quando ci si improvvisa cuochi e sicuramente si fanno dei grandi disastri, ecco, però, questo sì, è vero, diventa però comica sotto questo aspetto. Davide, quando si parla di una cena, per esempio, immancabilmente si finisce c'è una cena romantica, no? E invece ci può essere anche una cena conviviale tra amici dove il filo conduttore è lo star bene, il sorridere, il ridere. Tu che cosa prepareresti e che cosa berresti? Ma guarda, io credo che la cosa per far ridere e sorridere deve essere molto semplice, non deve essere sicuramente i piatti dei grandi chef non faranno mai sorridere, qualche volta faranno ridere. Io credo che quello che faccia sorridere e star bene sia messo attorno a un tavolo un bel salame e con un bicchiere di vino rosso, magari contadino, ecco, queste cose, un pezzo di formaggio in mezzo e tutto mangiato con le mani. Io credo che questo sia il miglior modo per far sorridere, far ridere, far star bene. Il resto è troppo impegnativo, oggi bisogna stare lì con la macchina fotografica a fotografare i piatti. È vero, e poi si sta a disquisire 30 ore se uno ha usato la cannella invece non so di che cosa, insomma. Ecco, io credo, ormai guardando queste cose, un tempo forse no, ma ora mi viene veramente da ridere. Senti, e invece cosa berresti? Sicuramente bollicine o no? Ma non è detto, perché le bollicine, no, io devo dire un vino bastardo, quelli che chiamano i vini bastardi, quelli imperfetti. Io credo che il vino imperfetto sia il miglior vino del mondo, non sia quello perfetto. Quello perfetto non ti fa parlare, non ti fa così discutere, quello imperfetto sì, perché c'è chi dice una posizione o l'altra, però credo che sia la convivialità, non sia tanto, diciamo, quello che si mangia, ma quello che c'è attorno, l'atmosfera. Io credo che sia sempre questo. Che poi alla fine ti dà il suggello giusto. Quello sicuramente. Credo che siano le robe semplici. Le robe semplici, magari, sai cos'è che ti fa sorridere e star bene? Magari delle cose che mangiavi da bambino, che hai ritrovato, allora sicuramente stai benissimo. Però, ecco, mangiare con le mani, secondo me, è già un modo per star bene, per star meglio, magari coi piedi scalzi. Ecco, beh, insomma, certo che la cena raccontata così non solo diventa indubbiamente bella, simpatica, ma soprattutto è economica, e quindi questo ci fa sicuramente piacere. Perché tra il pane e il salame e il vino bastardo sicuramente non spenderemo una grande cifra. No, perché sai, molte volte in certi posti quando arriva il conto ti fa piangere, esatto. Non ti fa mai ridere. Esatto, ridi semplicemente per metterti quella maschera davanti e far finta di niente, dai la carta di credito e poi piangi a casa. Io molte volte veramente rido quando vado in certi posti che cercano di scimmiottare magari quello che hanno visto in televisione, hanno sentito o hanno letto dei grandi cuochi. Una cosa che mi fa veramente ridere sono quelli che sono santini o gli svuoto, sono quelli che ti arrivano e che ti dicono che è omaggio dello chef, dice lo manda la cucina, no? Allora ci sono i grandi ristoranti che magari danno qualcosa di molto particolare, lo pensano loro che sia particolare, ma molte volte non lo è. Ma invece tu vai in questi ristoranti che stanno scimmiottando, ti mettono una foglia di lattuga, una foglia magari bucata, con un pezzo di salame sopra, e allora mi viene da ridere perché allora dammi un pezzo di salame che io me lo mangio con le mani. Forse lo scopo è proprio quello alla fine. Grazie Davide. Ciao, buona domenica. E mi piace questa vena polemica di Davide. Secondo me è successo qualcosa in qualche ristorante, non lo so, poi magari glielo chiederò. 11:32, tra pochissimo scatta il cronometro per il mistero in 24 minuti. Il numero verde per prenotarvi, eccolo qua, 800 24 0024. Ci sono 1000 euro per voi. Il riposo del guerriero. Stiamo per giocare, mi arriva un messaggio curioso, dice: ah, ma avete discusso di comicità del nord e manca quella napoletana. Allora, intanto io vorrei dire che Barti Colucci comunque sia pugliese, e poi Foist è un attore romano. E abbiamo parlato di un festival che è Bravo Grazie che riguarda assolutamente tutta l'Italia. E il titolo della puntata di oggi è Non ci resta che ridere, che parafrasava ovviamente Non ci resta che piangere di Troisi. E poi Braida ha citato Edoardo, quindi credo che veramente ci sia tutta l'Italia, come al solito, e guai se non fosse così. E comunque è vero, grande comicità degli anni 60, per esempio, partiva proprio non solo dal centro Italia ma anche dai milanesi. Ricordate i personaggi tipicamente milanesi che c'erano nei film comici, e quindi insomma la comicità riguarda sicuramente tutta l'Italia, forse qualche regione che è un po' meno comica, il Trentino per esempio. Non mi vengono in mente comici trentini, ma sicuramente ce ne saranno. Un mistero in 24 minuti. Ecco il tempo che abbiamo a disposizione, anzi l'avete voi, per portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta può essere un personaggio famoso o qualcosa insomma di particolarmente conosciuto, oppure una notizia della settimana. Più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà, appunto si parte da 1000 euro. Il numero verde per partecipare 800 24 0024, e il primo indizio arriva da Alberto Fortis. E non ti impressionare per il sale, brucerà solo un pochino ma non fa poi tanto male, e insieme al seno tuo ci voglio fare un'insalata con un po' di fieno. Non ti è stato risposto, non farla perché una mucca potrebbe morire per te. Il primo indizio, Giacomo, buona giornata, buona domenica. Buona domenica. Eccoci, 1000 euro per te, sono qua sul tavolo, che cosa vuoi fare? Io chiederei un altro indizio. Ecco, scendiamo già a 500 euro e arrivano i Guns N' Roses. Guns N' Roses, niente da dire. Giacomo, sì, questa era Madagascar. Madagascar. Mm-hmm. Devo dire, è stato un film anche famoso intitolato così. Senti come cerca su internet. Sì, sto cercando qualcosa ma non viene fuori niente. Ti consiglio una tastiera virtuale, così non fa ta ta ta ta ta ta. Niente, io provo a dire il personaggio che ho visto questi mesi, in questi giorni sul giornale, Charlie Sheen. Charlie Sheen. Ma c'è un motivo o semplicemente perché ti è apparsa come prima risposta su Google? No, l'idea che avevo perché è stato coinvolto in un affare con delle attrici porno, per cui nude senza seno. Ah, eccola la risposta. Hai visto come si davano da fare gli attori? Mi ha portato un po' fuori strada, però l'unica idea che avevo era quella. Ma che parole hai messo nei motori di ricerca? No, adesso ho cercato solo Madagascar. Ah, e basta. Vabbè. Ah, beh, potrebbe anche, non posso dire di più. Grazie però. Grazie, grazie. Giacomo, che potrebbe aver risposto anche correttamente. Lo sapremo allo scoccare del 24esimo minuto. Francesco da Milano, ciao. Sì, ciao signor Stefano, buona domenica. Allora, Francesco, che cosa vogliamo fare? Siamo già a 500 euro, due indizi sono... Sì, andati. Sono già sai, io provo. Provi? 500 allora, euro, dimmi, sì, vai. 500. Allora, la Lady Gaga ha prodotto un gelato fatto del latte materno sì. che proveniva dal Madagascar, per cui penso che va bene così. Grazie Francesco, buona giornata. D'accordo, grazie a te. Grazie. Ciao. Non ho capito chi proveniva dal Madagascar. Lady Gaga, no, vabbè, comunque. Luigi, dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Ciao Luigi. Ciao. Allora, siamo ancora a 500 euro, qualche risposta è arrivata? Ma io do la prima risposta che avevo in mente col primo indizio. Vai Luigi. È una notizia, una sì? signora di Pavia si è fatta asportare entrambi i seni perché in famiglia sia la madre che la sorella sono mancate proprio per e per evitare proprio di potersi ammalare. Sportare a 45 anni. Infatti è la prima volta che come profilassi, insomma, esatto, ha deciso di fare questo. È una notizia importante e ti ringrazio Luigi per avercela ricordata. Chiaramente non posso svelare certo. se questa è la risposta. Buona giornata, grazie allora, Luigi. 800 24 00 24. Piero da Taranto. Buongiorno. Ciao buongiorno. Piero, buongiorno. Vi ringrazio perché mi state facendo molta compagnia, sono in autostrada. Grazie a te. Ma sei in coda in autostrada? Spero di no. No, no, sono fermo in una piazzola di sotto. Ah, va bene, quindi te la stai godendo. Siete riusciti a far zittire mia moglie. Vedi, se vuoi. È stato molto positivo. Puoi anche scaricare il podcast dal nostro sito www.radio24.it, li fai ascoltare quando vuoi la trasmissione, così ecco. Sì, allora, sì. Come si chiama tua moglie, Piero? Allora. Io col primo indizio, chissà perché, ho pensato a Luciana Lisizzetto. Chissà perché, io saprei perché, Ecco, lei scherza molto sul fatto di avere poco seno. Solo che lo mostra quando può, sempre, in un modo o nell'altro. Simpaticissimo. Col secondo indizio, invece, sono andato su Diego Abbatantuono. Adesso per me è un personaggio. E chi è questo personaggio? Diego Abbatantuono, se non mi sbaglio, ha fatto lui Zanzibar. Non posso dire niente, sai che non posso commentare le risposte. Va bene, per me è Diego Abbatantuono, anche perché nella prima canzone si parlava di tagliare a fettine o giù di lì e fa parte un po' della comicità cruda di Diego Abbatantuono. Piero, chi lo sa, lo scopriremo se questa è la risposta giusta, nel caso così potresti portare a casa 500 euro. Come si chiama tua moglie, Piero? Mia moglie si chiama Rosalba. Quindi Rosalba, un saluto anche a Rosalba e chissà che vi possiate spartire questo premio. Buon viaggio ancora, visto che siete fermi poi riprenderete. Buona domenica. A proposito di viaggio, gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Non so se la Littizzetto, no, perché è la provincia di Roma. Luciana, buona domenica, ciao. Grazie, tanto. Eccoci qua. Allora, 500 euro ancora. Ci siamo fermati a due indizi. Che cosa vuoi fare? Innanzitutto spegnere la radio. Questa è la prima cosa che dovresti fare per cortesia. Il seno. Sì, pronto. Ecco, perché è stato detto seno in Madagascar. Sono i due indizi, beh no, i due indizi andati in onda fino adesso, una era Nuda e senza seno di Alberto Fortis e l'altra Madagascar di Guns N' Roses. Ecco, è stato scoperto un ragno che si chiama seno, sì. e che ha delle elastiche, non so se sia questo. Chissà Luciana, potrebbe anche essere, lo scopriremo al 24esimo minuto. Buona domenica, grazie. Grazie, altrettanto. Ciao Luciana. Ciao. Nunzia, dalla provincia di Bari. Sì, salve. Ciao Nunzia, eccoci Ciao. Pronti. Ciao. Cosa vogliamo fare? Abbiamo ancora due indizi. Hai una risposta o vuoi altri indizi? Sì. No, l'unica cosa che io non, cioè, ho pensato alla notizia che hanno già dato del latte materno, del primo gelato fatto con latte materno. Mm. Quindi ora non saprei cosa dire. Ma Francesco ha detto un'altra cosa. Francesco ha detto che Lady Gaga ha inventato un gelato. Ah, no. Baby Gaga, il nuovo gelato inventato a Londra da un gelataio che ha pensato di realizzare questo latte di questo gelato con il latte materno. Ok, grazie Nunzia. Prego. Buona domenica. Ciao Maria da Vicenza. Ciao Stefano. Ciao Maria, eccoci allora, qui. Allora, io non so perché, ma l'immagine che mi è venuta è Galliano. Così, come una visione. Sì, ecco. Una visione. Ti sei svegliata e hai visto Galliano stamattina. Purtroppo sì. Ho sentito la canzone di Fortis e ho pensato a John Galliano come personaggio. Certo, molto discusso in questo periodo. Grazie, sì, grazie, grazie, grazie Maria. Ciao. È bello perché gli indizi non vi piacciono più. 800 24 00 24. Paolo da Parma. Sì, pronto. Eccoci qui Paolo. Allora. Sì. Dunque. Comincio io? Sì, dovresti o chiedere un indizio oppure dare una risposta. Sì, guarda, io avevo pensato al primo indizio ad una notizia che appassa questa settimana sui giornali. Il secondo indizio mi ha, per la verità, un po' disorientato. Ne vuoi un terzo allora, magari? Proverei ad avere un terzo indizio. Scendiamo a 300 euro. Eccolo qua. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, ehi scendi, vieni giù dai, ma presto, vieni, dai. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Ovviamente a Sanremo era uguale in poche parole. Dai, venite qui, dai, salutate. Dai, così era uguale a Sanremo. Allora, andiamo avanti. Non mi ricordo chi ho al telefono in questo momento. È Paolo da Parma. Scusami Paolo, mi sono perso con i nomi. Allora, questo era il terzo indizio. Hai bisogno di una presentazione. Era Gianni Morandi di Fatti mandare dalla mamma. Sì, certo, un brano famosissimo. Sì. Devo dire che rispetto all'idea che avevo non mi ha confortato molto. Mi ha fatto piuttosto pensare a quello che aveva detto uno degli ascoltatori precedenti, che aveva parlato di un nuovo tipo di latte. Sì. Però sì, non mi ha dato delle nuove idee. Io, guarda, mi butto con l'idea originaria che avevo. Vai Paolo. È apparsa questa settimana la notizia del grande successo che ha avuto il balletto Crazy Horse a Mosca. Crazy Horse è un balletto che viene fatto in abiti piuttosto discinti, quindi la prima canzone, Nude senza seno, mi aveva fatto pensare a quello, per cui... Infatti le ballerine del Crazy Horse devono essere tutte alte uguali e con un seno non troppo... Non troppo pronunciato, no, sì. Sennò, esatto. Mica infatti come... Mica come le ragazze di Parma, ecco, che di solito. Di Parma non solo. Grazie Paolo. Prego. Buona domenica, grazie. Eva da Roma. Sì, pronto. Ciao Eva, buona domenica. Buongiorno, buona eccoci domenica. Qui. Allora, cosa combiniamo? Allora, io in effetti avevo già dal primo indizio, mi era venuta in mente una notizia che poi è stata in effetti anche data in maniera forse parziale, di questo gelataio Connor londinese che ha prodotto latte materno, ha prodotto gelato con latte materno e ha aggiunto vaniglia del Madagascar. Infatti il secondo indizio me l'ha confermato, perché Madagascar di Canzirrosi ovviamente è stato, certo, diciamo, la conferma. Certo Eva, grazie. Grazie, non so fare. In questo caso come funziona, ma volevo comunque provare, perché va bene, ci sono soluzioni e dintorni anche. Comunque, grazie Eva, buona giornata. Buona giornata. Wanda da Foggia. Sì, sono io. Ciao Wanda. Buongiorno, ciao. Allora, vogliamo dare una risposta? Sì, come primo indizio, sempre collegata al latte materno che hanno fatto il gelato. Sì. Quindi, collegandomi proprio al latte. Certo, sì. Va bene, sei stata chiara, però l'han già detto, Wanda. Lo so, veramente me ne era venuta un'altra. Allora butta. Ma non ha niente a che vedere con tutto quello che è stato detto, sì. Della multa che tempo fa ebbe tu di 37 euro, miliardario com'è. Insomma, quella era una cosa proprio completamente diversa. Ah sì, e tu, ma prima di lui Lapo, lo sai, eh? Solo che Lapo se l'è intascata e non ha detto niente. Ha preso la sua bella multa, sì. E è andato via, in Via della Spiga, Milano. E invece Eto'o si è messo a discutere con la vigilessa come se avesse ricevuto un cartellino giallo. Sì, pregando proprio la vigilessa. Sì, ma 37 sì. euro, non riesco a comprarmi le sigarette stasera. Sì. Infatti era quella la... Però poi è uscita fuori il luogo con tutte le telefonate. Fa niente, però almeno ce l'hai ricordato questo fatto. Avevano una cosa in comune, comunque ce l'aveva Eto'o con Lapo, eh? Ah, sì? Sì, il SUV l'avevano tutte e due, sì, esatto. Perfetto. Grazie Wanda, sei un SUV. Perché ti seguo sempre. Ti ringrazio molto. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Carlo da Pavia. Sì, buongiorno. Ciao Carlo. Allora, va bene, anch'io penso che gli indizi portino verso il discorso del latte materno, però visto che questa notizia è già stata data, pensavo al personaggio, se non è ancora stato detto, Lady Gaga. A Lady Gaga, il personaggio, certo, e ci starebbe anche. Grazie Carlo! Grazie, grazie. Grazie. Alberto da Milano. Sì. Eccoci qua. Io volevo dire il gelato al latte materno, ma mi pare che è stato già detto. È stato già detto, sì, Alberto. Allora me la gioco con la signora Narella, quella che imperversa nel Parlamento a Roma. Ah, ho capito, presente? Certo, okay. Sì. Sì. Grazie Alberto, ciao. Ciao, buona domenica, ciao, ciao. Tempo scaduto, ma raccontarla bene questa notizia non c'è riuscito nessuno, io non dovrei premiare nessuno. Poi però, Nunzia, ma me la vuoi raccontare bene sta notizia, per cortesia? Sì, infatti ero un po' emozionata prima. Allora, il gelataio ha inventato un gelato con un latte materno, fatto automatizzato con vaniglia, ma è un gelato appunto con il latte materno, che ha suscitato un po' di scalpore. Per questo ingrediente. Beh certo, per l'ingrediente in sé. Allora voglio dire a Francesco che purtroppo Francesco ha così, anche se ha nominato il latte, però ha risposto male, perché ha detto Lady Gaga ha inventato un latte e un gelato, e non è vero. Allora, un gelataio inglese ha inventato un gelato prodotto con latte materno, vaniglia del Madagascar e scorze di limone. E infatti ha cercato delle mamme che potessero offrire il latte per produrre questo gelato, che si chiama Baby Gaga. Niente ha a che vedere con Lady Gaga, semplicemente perché Gaga è il primo verso che fanno i bambini. In Inghilterra si dice così, no? Come la famosa Radio Gaga dei Queen. Ecco, adesso c'è questo diverbio, il latte non può più essere prodotto, assolutamente è stato bloccato, e vedremo come andrà a finire. Questa è la notizia, e per te 500 euro, Nunzia. Grazie, grazie mille. Grazie a grazie te. Grazie ancora. E grazie anche agli altri ascoltatori. Mi spiace, molti si erano ormai avvicinati. 500 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E grazie a tutti. Il Riposo del Guerriero torna ovviamente domenica prossima. In redazione Giorgio De Luca, in assistenza Claudia Carusi, Paolo Corleoni in regia e voi ovviamente all'ascolto. Grazie da Stefano Gallarini. Buon weekend. A domenica prossima.